Benvenuti al primo episodio di La Casa del Ciliegio, il podcast dedicato alla mindfulness, alla consapevolezza e a come queste pratiche possano migliorare la nostra vita. Io sono Donatella D'Agostino, insegnante di mindfulness e facilitatrice per i protocolli MBSR e MBCT. In questo primo episodio parleremo di cosa sia la mindfulness, cosa significa davvero essere consapevoli e come questa pratica possa aiutarci a vivere una vita più piena, sana e in armonia con noi stessi. Dunque, cos'è la mindfulness? La mindfulness è una pratica di consapevolezza piena in cui prestiamo attenzione intenzionalmente al momento presente, senza giudicare. In altre parole, si tratta di essere completamente presenti in ciò che stiamo facendo, con una mente aperta, senza distrazioni e senza cercare di cambiarlo o modificarlo. Ma perché è così potente e utile? Perché ci permette di interrompere il nostro flusso di pensieri automatici, di ridurre lo stress e di vivere con più serenità e lucidità? La mindfulness ci aiuta a prendere una pausa dal rumore della vita quotidiana. Immagina per un momento di essere in un momento di intensa attività. Il telefono squilla, i messaggi arrivano senza sosta e la mente è piena di pensieri e preoccupazioni. La mindfulness ci permette di fermarci e osservare tutto questo senza esserne travolti. Quando pratichiamo la mindfulness, impariamo a rispondere in modo consapevole alle difficoltà invece di reagire impulsivamente, creando più calma e serenità. Cosa non è la mindfulness? Spesso si pensa che la mindfulness sia solo meditazione, ma in realtà è molto di più. Non è un rifugio dalla realtà o un modo per scappare dai problemi. Non si tratta di controllare la mente, ma piuttosto di osservare senza giudicare. E la mindfulness non è una soluzione rapida ai problemi. È una pratica che richiede tempo, pazienza e impegno costante. Dunque, quindi, potrei chiedermi, ma quali sono i benefici della mindfulness? Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la pratica regolare della mindfulness può portare a miglioramenti tangibili nella nostra vita. Riduce lo stress, l'ansia, aiuta a gestire il dolore cronico e migliora il nostro benessere mentale e fisico. Inoltre, la mindfulness è utile anche per aumentare la concentrazione, la consapevolezza emotiva e per migliorare le nostre relazioni interpersonali. Come possiamo iniziare a praticare la mindfulness? Iniziare con la mindfulness è più semplice di quanto si pensi. Si tratta di prendere qualche minuto al giorno per essere consapevoli del respiro, delle sensazioni fisiche, delle emozioni e dei pensieri che attraversano la nostra mente. Non è necessario un luogo speciale né attrezzature particolari. L'unica cosa che serve è un po' di tempo e l'intenzione di essere presenti. Inizia con piccole sessioni da 5-10 minuti e aumenta gradualmente. Infine, se vuoi scoprire di più sulla mindfulness e come può cambiare la tua vita, ti invito a seguire il mio percorso. Offro corsi per principianti e il protocollo MBSR, che è un programma di 8 settimane che ti guiderà a integrare la mindfulness in ogni aspetto della tua vita. Puoi trovare tutte le informazioni sulla mia pagina Instagram. Nel prossimo episodio parleremo delle radici storiche della mindfulness, esplorando come la pratica sia evoluta da una tradizione spirituale antica a una potente risorsa per la medicina e il benessere moderno. Non mancare!